E allora, vediamoli, 4 giorni, dal 16 al 20 ottobre, 4 persone detenute si sono tolte la vita nelle carceri italiane. È veramente un spaventoso. È spaventoso per tanti motivi. Uno, perché appunto ogni morte è spaventoso. Quando una persona viene costretta al suicidio, indotta al suicidio, come avviene nelle carceri italiane, è una cosa spaventosa, è un crimine, in realtà un crimine dello Stato, di questa della struttura carceraria, anche di questa società che accetta il carcere senza senza dire niente, facendo finta di niente. Ed è grave per un altro motivo, l'abbiamo detto più volte, no? Sono circa 2 anni, anche 3, da quando appunto la Corte Europea ha sanzionato lo Stato italiano per il cattivo sistema con cui teneva le carceri. Bene, tutti a parlare, i giornali, televisioni, tutti a parlare di carcere. Il carcere è sovraffollato, manca quello, manca quell'altro. Si dicevano tutti, non conoscendo il carcere, ma nemmeno volendo informarsi, perché il brutto dei giornalisti non è che non conoscono delle cose particolari come il carcere, non conoscono quasi niente, però è comprensibile che uno non conosca una questione molto particolare come il carcere. Ma quello che è ancora più grave è che non fanno nessuno sforzo per informarsi prima di scrivere le baggianate che scrivono i giornali. Vale anche per la televisione, per la radio, eccetera. Bene, dopo i 3 provvedimenti cosiddetti svuota carceri, la quantità di persone detenute è diminuita da 69.000, ha raggiunto quasi la soglia dei 70.000, da lì scattò la grossa multa da parte della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo contro lo Stato italiano. Adesso è arrivata a 57-58.000, quindi un buon calo. Non c'è più quel sovraffollamento enorme, eppure i suicidi non solo continuano ma si intensificano. Questo per dire che l'elemento centrale, se uno conosce un po' il carcere, sa che non derivano che il suicidio non deriva dal sovraffollamento, dalla doccia che funziona o che non funziona, dal passeggio stretto o largo. È un altro il problema. È chiaro che quelle cose inducono maggior sofferenza, il sovraffollamento, gli spazi ristretti, la mancanza di questo e di quello, ma non inducono al suicidio, fanno incazzare, casomai dovrebbero indurre alla rivolta. Quello che induce al suicidio è un'altra cosa, è proprio l'essenza del carcere, per come oggi è inserito il carcere nella società italiana, nelle relazioni sociali maggioritarie che vanno per la maggiore, nella cultura dominante il carcere oggi è l'ultimo posto dove andare, è laddove ci relegano i disperati, i disgraziati senza speranza, e lì avviene il suicidio, quando uno non ha più speranza, non ha più possibilità di essere accettato dalla società, di rientrare. Non è quindi la mancanza di lavoro in carcere, che pure è un problema, la mancanza di spazi, le pene lunghe, eccetera, tutto giusto, ma non è quella l'essenza del carcere. L'essenza del carcere che induce al suicidio è un altro aspetto per nulla scoperto dalla saggistica giornalistica di questi anni, e bisognerà tornarci. Noi ci torniamo spesso. Il carcere è l'elemento centrale, è la deportazione, quello che è centrale in tutte le forme di distruzione dell'identità della persona, quando si troncano le relazioni sociali, amicali, sessuali, affettive che una persona ha, e quindi le si deporta in un luogo assurdo, è chiaro che lì avviene la devastazione, quindi la induzione al suicidio. 4 persone, dicevamo, a Latina. Un uomo di 38 anni si è ucciso, si è tolto la vita a Padova, un uomo di 38 anni magrebino si è tolto la vita nel Due Palazzi, il carcere Due Palazzi di Padova. Ad Ascoli Piceno il 20 ottobre, il 16 ottobre, il 19 ottobre, il 20 ottobre, un uomo di 48 anni si è ucciso appunto nella cella, questo italiano, 2 italiani, il terzo magrebino, il quarto è stato un altro uomo di 43 anni al carcere Buon Cammino, il famigerato Buon Cammino di Cagliari. Yeah. 15 e 12 minuti prima, diciamo, appunto, non ci piace aprire questa trasmissione con le morti, che pure purtroppo fioccano le carceri italiane, con i suicidi in particolare, perché non è questo il miglior modo di affrontare il tema del carcere, come di ogni situazione problematica che induce sofferenza, contro la quale bisogna organizzarsi e lottare. Lamentarsi è il contrario di lottare. Se uno si lamenta è chiaro che non lotta, non è disposto, non ha l'animo per organizzarsi e lottare. Questo vale per il carcere: se c'è molto lamento non c'è lotta, se c'è lotta no, ovviamente non c'è lamento, c'è proposizione, c'è speranza, c'è organizzazione. Ma vale anche per la disoccupazione: quando la gente si lamenta per la disoccupazione, per la precarietà, per le condizioni, è chiaro che non lotta, non è disposta a lottare, non ha proprio l'orizzonte culturale di affrontare quella situazione drammatica che vive insieme ad altri, appunto insieme ad altri, organizzarsi insieme agli altri e esprimere lotta per modificare. Se uno vuol modificare la propria condizione, è chiaro che non ha senso lamentarsi, non si lamenta mai, perché sa che ci stanno due parti sostanzialmente, no? Chi vuole schiacciarti, buttarti giù in carcere, nella disoccupazione, nella società, nella precarietà, ovunque, e chi invece chi sta in questa situazione, che vuole alzarsi in piedi per ribaltare la situazione. Quindi il lamento non serve per quello, non l'apriamo mai con i morti in carcere pure, ma stavolta in 4 giorni 4 morti è stato importante, cioè l'abbiamo voluto dire intanto per ricordare che appunto tutte le stupidaggini dette in questi 3-4 anni dai giornali, che pure hanno parlato di carcere, aspettavano i televisivi, facevano vedere le cose orrende, oddio come si soffre, oddio come si sta male, cioè non hanno affrontato il problema carcere, perché il problema carcere è proprio questo. Oggi il dramma del carcere: si muore in carcere perché non c'è prospettiva, quindi non c'è organizzazione, non c'è conflitto, lotta, protesta, non c'è questa roba qui che invece fa intravedere a chi sta dentro, privato di tutto, perché chi sta dentro è privato di ogni cosa, non fa intravedere la possibilità di cambiare, di raggiungere la libertà, di annientare, distruggere il carcere che lo schiaccia. Bene, quindi questo volevamo dire, questo abbiamo detto. Il problema è vediamo invece che cosa succede in questo che cosa è successo in questo in questa settimana. Un tema che avevamo già più volte messo in ridicolo era il decreto, la legge, che non è legge, che ha fatto lo Stato italiano, a conclusione dei tre svuotacarceri ne ha fatto uno conclusivo recentemente, che è diventato legge da poco. Questa diceva, diciamo, stabiliva tutte diciamo, i provvedimenti che hanno permesso un maggior uso delle misure alternative, quindi l'uscita di queste persone dal carcere, ma non per raggiungere la libertà, per andare in situazioni sempre di detenzione esterna al carcere, quindi misure alternative, controllo domiciliare, eccetera. Bene, queste leggi erano quelle appunto dell'aumento da 3 a 5 mesi della liberazione anticipata, cioè dello sconto di pena per buona condotta per ogni anno di detenzione, 5 vengono scontati se c'è la buona condotta. E quindi, insomma, con questa cosa, poi il fatto di ridurre la carcerazione preventiva a vantaggio di altre misure, cioè quindi arresti domiciliari, firme, controlli, eccetera, per tutti i reati che, in cui il giudice non ravvisa una pena superiore ai 4 anni. E tutte queste cose, tra tutte queste cose ci hanno infilato anche il problema della punibilità dello Stato italiano, diciamo, del risarcimento dello Stato italiano a quei detenuti e detenute che dimostrassero che sono vissuti, sono stati tenuti per un tot periodo nel carcere con meno di 3 metri quadrati a disposizione. Era proprio per togliere la possibilità che la Corte Europea dei diritti dell'uomo facesse queste multe allo Stato italiano e autorizzasse appunto, cioè obbligasse lo Stato italiano a risarcire questi detenuti, perché fino appunto a questa legge i detenuti facevano ricorso alla Corte Europea. Sono arrivate 6.400 denunce in cui i detenuti spiegavano di essere stati tenuti per da un giorno a tanti anni in condizioni disumane, e la Corte stava vagliando queste cose. A quel punto ha fatto un out allo Stato italiano, dice: o ci pensi tu oppure noi diamo il via libera a tutte queste denunce. E lo Stato italiano ha introdotto questa misura, l'abbiamo detto, l'abbiamo spiegato più volte, è diciamo un 8 euro per ogni giorno di condizioni appunto disumane, per ogni giorno che uno dimostra di essere stato in condizioni disumane lo Stato ti dà 8 euro, oppure un giorno ogni 10 giorni di sconto pena. Bene, noi dicevamo che era un po' un'assurdità questa cosa, intanto perché è molto difficile dimostrare, in carcere stai solo te, se stai insomma, te, altri detenuti e i secondini, le guardie. È difficile dimostrare appunto perché non ci sono occhi esterni, testimoni esterni, che tu stai in una cella di tal tipo, con tanti metri quadrati, con tante situazioni, eccetera. Difatti è venuta fuori la storia, e quindi diciamo difficilmente daresti 8 euro per ogni giorno di carcere. Difatti la deputata radicale Rita Bernardini ha fatto un articolo in cui dice: è una sola in termini romano, cioè una fregatura, sapete che vuol dire una sola, no? È un imbroglio questo fatto degli 8 euro, è perché la gran parte delle persone che hanno fatto ricorso da quando questa legge è in vigore sono stati diciamo è stato a questo è stato detto di no, oppure se è stato rimandato chiede il ministero a cui uno fa ricorso, chiede per il risarcimento, chiede ulteriori accertamenti, quindi la cosa va per le lunghe. In realtà è chiaro che è difficile, stante la condizione del carcerato, dimostrare a chi ti viene dentro, perché finché la facevi il ricorso alla Corte Europea, che in qualche modo è un organismo terzo, cioè il detenuto, i carcerati, il ministero con tutto l'apparato dell'amministrazione penitenziaria che ti tiene in carcere, quindi carcerato, carceriere, e la Corte Europea è una terza figura che poteva decidere, perché non era coinvolta né tra detenuti né tra carcerieri, quindi era un organismo esterno che poteva decidere, mentre invece qui era praticamente il carceriere, il carcerato fa ricorso al carceriere perché multi il carceriere stesso. È chiaro che è un po' strano. Ora la Bernardini dice che la legge è scritta male, Difatti è scritta male, è congegnata male, ma è anche il concetto che è sbagliato, perché appunto manca la terzietà, manca un giudice terzo, perché è lo stesso carceriere che dovrebbe decidere che ha sbagliato a tenerti in condizioni disumane e quindi tirare fuori gli 8 euro per ogni giorno. In realtà finora tutte le circa il 99% delle proposte di risarcimento presentate da detenuti e detenute sono state respinte dai magistrati di sorveglianza, a cui arriva la prima istanza, no, della richiesta di risarcimento, oppure richiesta di ulteriori accertamenti. Quindi niente, non se ne fa niente, è un imbroglio, uno dei tanti imbrogli fatti dallo Stato italiano. Sono serviti allo Stato italiano per evitare la multa che si presentava, sarebbe presentata una grossissima multa se non avesse ridotto un po' la popolazione carceraria, se non avesse assunto su di sé l'onere del rimborso, del risarcimento per quelli tenuti in quella condizione. La Corte Europea ha accettato questo fatto che lo Stato italiano decideva il rimborso, il risarcimento, però come vedete poi è andato a finire così, come si dice, è una sola detta alla romana, oppure è finita a taraluce e vino, per dirla alla napoletana. E insomma, come la volete chiamare, sono tanti modi con cui si chiamano le fregature che vengono date a chi sta sotto nei vari dialetti italiani, insomma ditela come volete, però è questa cosa qui. Allora, alla 15:24, ancora in diretta. Allora, veniamo al casus belli, per dirla, che in termini così un po' enfatici, di questa porcheria che si sta sviluppando nel governo. in merito alla riforma del sistema penale, insomma, di procedura penale, il sistema processuale, cioè come ti portano in carcere, come ti mandano alla fine in carcere. Abbiamo detto che si sono sviluppate due commissioni, quella fatta per riformare questo ordine del sistema, i processi, l'arresto, il non arresto, prima, dopo, insomma, tutto questo meccanismo qui è stato messo in piedi da due perché due commissioni? Una commissione fatta dal ministro Andrea Orlando, che è il ministro della giustizia, il guardasigilli attualmente in carica. L'altra commissione presieduta da Nicola Gratteri, che è il procuratore di Reggio Calabria, e che era quello che doveva, dalle voci che girano, ma vi sono tanti articoli che parlano di queste cose, era quello che quando Renzi si è insediato a febbraio scorso, no, governo, l'aveva presentato come ministro della giustizia. Poi non so che è successo, qualcuno si è opposto, non è simpatica a tutti Nicola Gratteri, e quindi Renzi ha dovuto ripiegare su Orlando. Questa cosa è rimasta appesa lì, Renzi non è convinto che Orlando andava bene per la riforma che voleva fare lui della giustizia, quindi a un certo punto ha proposto una commissione presieduta da Gratteri con altri tecnici, no? Cioè, c'è pure Davigo e altri, che propone una riforma più che altro andrebbe chiamata controriforma, completamente diversa da quella che invece intende fare il ministro Orlando. Sono due progetti che si muovono in senso opposto l'uno con l'altro. Quella appunto di Gratteri tende a ribaltare tutto, abolire praticamente il diritto alla difesa. Ora leggiamo che dice l'Unione Camere Penali, cioè l'associazione che riunisce tutti gli avvocati di questo paese. E l'altra, il ministro Orlando invece era conciliante, cioè chiamava in un tavolo anche gli avvocati, tutti gli operatori della giustizia, e insieme volevano trovare delle piccole soluzioni, piccole riforme per migliorare la situazione. Non si sa ancora bene quale il governo sceglierà tra le due linee, completamente diverse, una va a nord e una a sud, quindi è un problema. Allora, è scesa in campo l'Unione Camere Penali. L'Unione Camere Penali, lo sapete, è l'associazione nazionale che riunisce tutti gli avvocati, in gran parte i penali, quelli che appunto seguono le vicende di carattere penale, perché sono quelli più, non tanto il codice civile, ma appunto il codice penale. Allora, dice così, è di tre giorni fa questa proposta, queste per le parole loro dell'Unione Camere Penali, Unione Camere Penali Italiana. Mentre è in corso un confronto certamente vivace e a volte anche aspro con il ministro della giustizia Andrea Orlando, cioè al quale riconosciamo il merito di dialogare anche con l'avvocatura, cioè con tutti gli avvocati, sulla ipotesi di riforma della giustizia penale, notizie di stampa riferiscono che la commissione presieduta da Nicola Gratteri avrebbe predisposto ipotesi di riforma ancora una volta parziali e settoriali, ispirate ad una logica di compressione del diritto di difesa. È una parola semplice per dire di abolire, schiacciare il diritto alla difesa, portato, questa è gravissima questa frase, sentite, portato da una visione inquisitoria del processo in aperto contrasto con i principi costituzionali. Cioè si dice praticamente, qui non sappiamo ancora perché nessuno ci dice quale sarà, che cosa sceglierà il governo, però da quello che dice la stampa, perché è uscito sull'Espresso, su Panorama, la bozza di proposta di Gratteri ormai è uscita da tante parti, ne abbiamo parlato anche noi, è quello che vuole mettere il processo in videoconferenza per quasi tutti, vuole impedire il confronto, il rapporto tra avvocato o tra difensore, avvocato difensore e imputato in maniera chiusa, cioè quel dialogo dovrebbe essere ascoltato, quindi allucinante veramente, quindi dicono che ha un portato inquisitorio. L'Unione Camere Penale dice si sta riproponendo, Gratteri ripropone l'inquisizione, laddove appunto non c'era il diritto di difesa manco per niente. Vabbè, questa è la nota dell'Unione Camere Penali, eccetera eccetera. Qui dicono appunto, continuano a dire in questa nota, che c'è nella proposta Gratteri una significativa limitazione del sistema delle impugnazioni per scoraggiare l'appello. Cioè questo è il punto centrale che loro vedono peggiore, peggiorativo, loro sono quelli che difendono appunto gli imputati, si arriverebbe addirittura alla possibilità dell'aumento della pena anche nel caso di impugnazione del solo imputato. Cioè il meccanismo, come sapete, o se non sapete ve lo dico, è questo, no? Quando c'è il processo di primo grado, che finisce con una condanna o anche con una sentenza di qualunque tipo, assoluzione o condanna di qualunque tipo sia, ovviamente le due parti, il pubblico ministero o la difesa, possono ricorrere in appello, no? Questo dice la legge. Se ricorre il pubblico ministero, in appello può essere aumentata la pena, no? La condanna. Se ricorre soltanto l'imputato e non il pubblico ministero, cioè l'accusatore, finora la legge dice che non può essere aumentata la pena. Cioè se ricorre soltanto l'imputato contro la sentenza che ha avuto e non ricorre l'accusatore, cioè il PM, e la Corte di Appello non può aumentare la pena, deve soltanto analizzare le proposte fatte appunto dall'imputato per vedere se si può, che chiaramente chiede una riduzione della pena oppure un'assoluzione, cioè se vede, rianalizza il processo dal punto di vista dell'imputato. Questo dice la legge fino adesso. La proposta Gratteri è di modificare questa cosa, cioè anche nel caso che ricorra soltanto l'imputato e non l'accusatore e il pubblico ministero. Se non ricorre il pubblico ministero, qual era la logica della legge fino a oggi esistente? Che se non ricorre in appello il pubblico ministero, cioè l'accusatore, è chiaro che quella sentenza gli va bene all'accusatore, cioè ritiene che la Corte abbia accettato i motivi dell'accusa e là li abbia trasformati in condanna, e quindi gli va bene. E perché allora, quindi se ricorre soltanto l'imputato, la Corte d'Appello può ancora invece aumentare la pena? Questa è una modifica tremenda, è una modifica anche costituzionale pesante, che secondo quello che dice la stampa è contenuta nella riforma Gratteri ed è l'elemento centrale su cui si arrabbiano molto gli avvocati dell'Unione Camere Penali Italiane, cioè gli avvocati penali di questo paese. Poi l'altro elemento che dà fastidio agli avvocati penali è che nel caso delle spese, se un detenuto viene condannato, un imputato viene condannato, a pagare le spese, no? E questo finora è così, le spese processuali. Nel caso di condanna dell'imputato a pagamento delle spese processuali, anche il difensore dovrà partecipare al pagamento di queste spese, che è un po' una cosa, vabbè. Si prevede l'estensione della condanna alle spese al difensore dell'imputato soccombente, quasi che l'avvocato e l'assistito fossero una persona sola, cioè quindi dovrà partecipare alle spese, al pagamento delle spese nel caso in cui l'imputato venga condannato. Questo è l'altro elemento che sta in questa contro riforma Gratteri, che è molto preoccupato, questa la preoccupa molto di più, mi preoccupa perché significa che dovranno cacciare i soldi se dovesse passare questa cosa, ma porterebbe un po' la situazione della giustizia italiana un po' fuori dell'ambito di quelle che sono le realtà esistenti perlomeno in Europa. L'altra proposta, quella ancora che farà, la terza, è quella dell'estensione della videoconferenza come forma ordinaria di partecipazione al processo da parte delle persone detenute e anche degli avvocati. Cioè la proposta Gratteri sull'estensione della videoconferenza pressoché a tutti, perché porterebbe un grosso risparmio, si risparmierebbe sulle traduzioni, sul portare gli imputati dal luogo dove stanno in carcere al posto luogo dove si celebra il processo, quindi abolirebbe tutte queste spese e impedirebbe anche la possibilità di dialogare tra avvocato e imputato, che è importante nella fase processuale, è decisivo. Man mano che si svolge il processo è chiaro che vengono fuori cose, che so, un testimone dice una cosa, un testimone dice un'altra durante il processo stesso, è chiaro che in quel momento proprio serve che l'avvocato si consulti con l'imputato o l'imputata, ovviamente, per decidere insieme in quel momento proprio, di fronte a nuove forme, a nuove prove che escono, a nuove testimonianze che escono, che condotta eseguire. Ed è l'elemento centrale del diritto della difesa, che con la videoconferenza verrebbe abolito, perché il detenuto sta su un microfono a un'altra parte d'Italia, l'avvocato a un'altra parte d'Italia col suo microfono, ed è chiaro che non possono dialogare, perché così verrebbero ascoltati da tutti e non possono stabilire, decidere, che, capito? Salta veramente tutto il meccanismo cosiddetto garantista di carattere liberale che c'era nella forma processuale che è in voga praticamente dall'Ottocento ad oggi, più o meno in tutti i paesi. Quindi salterebbe tutto e si tornerebbe, come dicono gli avvocati penalisti, si tornerebbe veramente all'Inquisizione. Vabbè, quindi questa della videoconferenza è gravissima, e qui sono molto incazzati su questo. Quindi a questo punto dice salta l'udienza pubblica, anche questa è addirittura di carattere del periodo romano, le udienze. Fare l'udienza pubblica significa garantire il fatto che non ci siano imbrogli, perché ci stanno una sorta di cittadini, vabbè quanti ne contiene l'aula, anche pochi, però comunque sia significa che si può ascoltare, no? Delle persone possono ascoltare che dice la difesa, che dice l'accusa, i testimoni che vengono prodotti, che cosa dice il giudice, che cosa dicono gli imputati, cioè la cosa deve essere pubblica, la garanzia del processo, diciamo, di carattere garantista in qualche modo è dovuto proprio alla pubblicità del processo stesso, è aperta a tutti, tranne in casi eccezionali per reati appunto minorenni oppure di carattere sessuale, vengono fatte a porte chiuse, ma sono casi straordinari la gran parte dei reati, ed è la garanzia, diciamo, del garantismo, perlomeno di quello liberale in voga appunto dall'Ottocento, è la pubblicità del processo, che in questo modo verrebbe abolita, perché appunto con la videoconferenza non c'è questa possibilità di colloquio tra difensore ed imputato in maniera un po' così, che la sappiano solo loro. Viene colpita l'autonomia e l'indipendenza del difensore, è così, è evidente, dicono gli avvocati. Quindi dice qui non sono, e poi traggono la conclusione, dice tutte queste proposte appunto della Commissione Gratteri non mirano a riformare i codici, ma ad operare una vera e propria controriforma che svilisce tutta la funzione difensiva e i diritti e le garanzie dell'imputato. Dice su questo, se dovesse andare avanti questa linea, noi ci opporremo pesantemente e duramente, questo dicono gli avvocati. Allora, scusa, 15:39. Torniamo su questa diatriba, appunto, che contrappone un po' tutti, appunto, all'interno della giustizia, due aree, due commissioni, due linee, quella di Gratteri e quella di Orlando. Orlando è il ministro in carica, Renzi, da quello che si sa, sta dalla parte di Gratteri, poi però vedremo gli equilibri parlamentari. E allora, quando è uscita fuori questa posizione che abbiamo ora letto, critici, molto critica delle proposte di Gratteri da parte degli avvocati penali, degli avvocati penali dell'Unione Camere Penali Italiani, il ministro Andrea Orlando è stato intervistato dalla Corriere della Sera perché così, da Aldo Cazzullo, che è uno che si occupa di queste cose. E allora la prima cosa che dice Orlando è che taglia veramente i ponti e acuisce la contraddizione con la commissione Gratteri, e dice: l'aumento dei detenuti in questo in Italia non è dovuto ad un aumento dei reati, cosa che noi abbiamo detto fin da 3-4 anni fa, chi segue questa trasmissione lo abbiamo detto da circa 10 anni fa, i reati in Italia, soprattutto quelli contro la persona, quelli gravi, quindi sono cominciati a calare, arrivando ad un minimo abbastanza minimo. È uno dei luoghi dove il rapporto alla popolazione avvengono meno rispetto ai paesi europei, meno reati contro la persona di tutti i paesi europei, quindi questo è un discreto record. Tuttavia sono aumentati proprio in questi 10 anni di molto le persone in carcere, perché, e lo dice pure, l'abbiamo detto noi, però noi eravamo sovversivi, cattivi, e invece lo dice anche il guardasigilli Andrea Orlando, l'aumento dei detenuti non è dovuto ad un aumento dei reati, ma ad una scelta politica. L'Italia ha deciso di aumentare il ricorso al carcere per reati di droga e di immigrazione, invece al contrario bisognerebbe puntare su una pena in comunità e sui lavori di pubblica utilità. Queste le prime parole con cui si apre questa intervista sul Corriere della Sera del 19 ottobre, 3 giorni fa, fatta da Aldo Cazzullo ad Andrea Orlando. Poi c'è tutta una polemica dentro questa diatriba, in cui abbiamo visto due parti nel ministero e due commissioni: l'Unione Camere Penali contraria alla proposta Gratteri e invece che strizza l'occhio ad Andrea Orlando, ma ci stanno anche i magistrati sono incazzatissimi con tutta la parte governativa, perché c'è stata, dentro questa proposta si vogliono toccare le ferie le loro ferie dei magistrati, e quindi Aldo Cazzullo comincia da lì, dal fatto delle ferie, che però è una cosa di poco interesse, che non ci interessa, perché c'hanno troppe ferie, eccetera eccetera. C'è però un elemento che tira fuori Orlando, che non è del tutto sbagliato: quella sì, appunto, dovranno tagliare, hanno troppe ferie, quindi questo rallenta i processi, eccetera eccetera. Allungare l'anno operativo, che invece si chiude a quasi 3 mesi chiuso, quindi per 3 mesi di vacanze dei magistrati, loro dicono che non è così, perché chiaramente in quei mesi devono aggiornarsi, studiare, ma questo è tutto un discorso che non ci interessa. Quello che invece può essere interessante è che dice: però bisogna stare attenti, dice Orlando, perché anche gli avvocati non operino per prolungare il processo, perché appunto prolungando la causa, tutte le cause, i processi, chiaramente l'avvocato prende più soldi, perché viene pagato per il periodo che dura la causa, che dura il processo. Quindi è una tendenza, ed è vero questa, da parte degli avvocati di prolungare il processo per due motivi: uno, per arrivare alla prescrizione. Sapete che c'è prescrizione, sono state abbastanza ristrette, quindi i potenti che pagano tanto, gli avvocati ci mettono tutti i cavilli in modo da arrivare alla data della prescrizione prima che sia concluso il processo, che sia emessa la condanna. E quindi sapete il caso di Berlusconi e di tanti altri che hanno avuto la prescrizione, il reato viene annullato. Quindi dice: non devono fare così, perché a volte lo fanno anche semplicemente per prendere più soldi, perché più dura la causa. E invece gli avvocati dovranno diventare loro stessi dei promotori di soluzioni. E allora Orlando propone la sua linea, che è molto diversa da quella, intanto, di lavorare in con gli avvocati, no? Perché appunto fare in modo che loro non si adoperino per prolungare il processo, ma invece diventino operatori di soluzioni. Fare in modo che gli avvocati che lavorano con l'imputato, stanno in simbiosi con l'avvocato, possano produrre appunto delle soluzioni alla situazione processuale in corso, quindi appunto il problema di produrre, per esempio, per il problema delle droghe, fare in modo che scompaia la situazione carceraria per chi è a reati di droga, invece fare in modo che siano gli stessi avvocati a proporre soluzioni di comunità o altro, o lavori socialmente utili o altre cose. Questo è importante. E poi Aldo Cazzullo gli fa anche la proposta, dice: ma come mai si è parlato in questi 4 anni, da quando c'è stato il massimo, no, 70.000, e quindi la sanzione della Commissione Europea, come mai, dice, si è parlato appunto dei provvedimenti di svuota carcere, ne sono stati fatti 3-4 con l'ultimo complessivo, e invece non si parla di costruire le nuove, che era il progetto, diciamo, di Berlusconi di 7-8 anni fa, e propone questa cosa qui. Allora risponde Orlando: costruire è necessario, ma va anche detto che l'aumento dei detenuti appunto non c'è questa necessità di aumentare i detenuti, quindi non è inutile spendere i soldi per costruire altri carceri, casomai è meglio aggiustare quelle che già ci stanno, renderle più agibili. Ma il problema è che se si opera realmente rispetto a quanto succede in questo paese, è chiaro che il numero dei detenuti potrà essere molto ridotto. Questo è più importante perché ci sono delle visioni. Ora sapete come la pensiamo noi qui da questi microfoni: il carcere dovrebbe essere abolito, deve essere abolito, perché non è più, non lo è mai stato, e più passa il tempo più diventa insopportabile dalla realtà umana, in conflitto totale, in antagonismo con la cultura libertaria che deve in qualche modo attraversare le persone, i rapporti tra le persone. Comunque sia, però è chiaro, stante il fatto che quindi non condividiamo né l'uno né l'altro pensiero, perché siamo per l'abolizione del carcere, tuttavia è importante ricordare queste cose. 7-8 anni fa, quando al governo c'era il signor Berlusconi, e venne fuori il caso perché nel 2005-2006 cominciò a esplodere il problema del sovraffollamento, Berlusconi lanciò il problema del costruire nuove carceri, no? Perché poi gli amici suoi, che sono tutti palazzinari, sono costruttori edili, avrebbero trovato grandi guadagni nella costruzione di nuove carceri, e hanno lanciato un sacco di progetti, hanno cominciato a fare un sacco di progetti, hanno lanciato il project financing, quello che le carceri le costruiscono i privati con i soldi loro e poi l'affittano lo Stato, cioè tutto un marchingegno per fare un grosso business sulla la pelle delle persone in carcere. Poi questa cosa è saltata perché la crisi, quindi la mancanza di liquidità, per fortuna in questo caso è stata utile la crisi, ha impedito questo che si sviluppasse questo processo di costruzione di nuove carceri. E disse in quel momento, dice: dobbiamo costruire nuove carceri, disse Berlusconi e tutti i suoi, tutto il governo, perché in Italia fisiologicamente ci dovrebbero stare circa 100.000 detenuti, quindi dobbiamo costruire nuove per avere 100.000 posti carcerari in cella. Quindi ne hanno pensato altre 20, altre 30 carceri. Orlando dice il contrario, dice: fisiologicamente l'Italia dovrebbe attestarsi sui 30.000 detenuti, non servono non di più, perché ne aveva 30.000, per esempio nel 95 erano 30.000 i detenuti in Italia, quando il numero dei reati era superiore a quello attuale. Adesso che i reati sono molto minori, dovrebbe stare intorno ai 30.000 e anche un po' sotto. Questo è il livello fisiologico. Ora, tra queste due valutazioni, 100.000 per Berlusconi e 30.000 per Orlando, è chiaro che la differenza è notevole. Ora, noi non sposiamo né l'una né l'altra causa, però per capire che insomma ci stanno delle culture completamente opposte anche in questo governo, perché anche in questo governo, a parte ci sta la destra, il nuovo centrodestra, che sta proprio nella compagine governativa, ma poi i rapporti tra Renzi e Berlusconi sapete quanto sono stretti, quindi in questa situazione però ci sono queste due impostazioni completamente diverse. E qui dice, a questa domanda risponde Orlando col fatto di dire: guardate che il problema dell'aumento dei detenuti non è dovuto all'aumento di qualche emergenza di reati che aumentavano eccetera, è dovuto a campagne stampa fatte da giornali che mettevano in risalto un fatto di cronaca come se fosse Grevix, e da scelte legislative. Sapete le leggi, no? La Bossi-Fini, la Fini-Giovannardi, la ex Cirielli sono quelle che hanno portato in carcere 30-40 mila persone in più che non ci dovevano stare, quindi è stata una valutazione del tutto politica. E poi passa al discorso vero, quello che mettevano i punti che l'Unione Camere Penali, cioè gli avvocati, criticavano della proposta Gratteri: il problema del ricorso, quindi se si può ricorrere, l'appello, in appello e in Cassazione, perché Gratteri diceva pure che basta il primo grado, col primo grado sei condannato, punto, va in galera e finita la storia, quindi saltare tutta quella cosa che in Europa, io conosco, in Europa penso anche in altre parti, ma in Europa sappiamo esattamente questa battaglia per far sì che un processo che prima facevano i signori, i feudatari, gli aristocratici, non fosse un unico grado, ma avesse la possibilità dell'appello. Questa battaglia cominciò nel 300, nel 200, 1200, 1300, quasi 1000 anni di battaglia, che poi ha preso corpo nelle costituzioni moderne dell'8 e del 900, con appunto primo grado, secondo appello e Cassazione. Gratteri vuol cancellare tutto questo, basta il primo grado, va in galera e finisce là. Orlando dice no, non va bene questa cosa qui, però dice il problema non è di abolire l'appello o i ricorsi in Cassazione, è assurda sta cosa qui, però si può invece ridurre, fare in modo che non tutto sia appellabile, per ridurre appunto la quantità. Se si mette, lui vuol proporre, questo vuol proporre Orlando, però qui dice solo due parole, se si propone, c'è già il patteggiamento, un super patteggiamento, lo chiamo proprio così, se noi, la proposta, che la riforma che sto facendo io prevede un super patteggiamento. Già il patteggiamento, sapete, l'imputato si dichiara colpevole e quindi l'avvocato dell'imputato e il pubblico ministero insieme al giudice patteggiano una cosa molto, molto inferiore, ovviamente, in modo che il processo si sbriga veloce. È un po' il modello americano. Il super patteggiamento che prevede, che propone Orlando, che sta nella sua riforma, dice è una confessione, appunto, quindi l'imputato si dichiara colpevole con un forte sconto di pena e una condanna concordata. Attenzione, lo dice, se noi stabiliamo questo super patteggiamento, il patteggiamento non vede, si mettono insieme avvocato, pubblico ministero e giudice, però poi decide il giudice, non è accettata la condanna anche dall'avvocato che difende, dal difensore dell'imputato, invece è arrivare a una condanna concordata e che quindi non prevede appello, quindi in questo caso potremo superare l'appello e la Cassazione se sviluppiamo le condanne concordate. Questo è un terreno molto scivoloso e preoccupante, perché è vero che voi dite vabbè, ma in questa cosa concordata ci stanno le tre figure, giudice, pubblico ministero e difensore, però siamo sicuri che il difensore sta sempre totalmente dalla parte dell'imputato? Grosso punto interrogativo. No, perché anche qui c'è la condizione di classe. Noi sappiamo, chi ha frequentato le galere lo sa, che spesso gli avvocati, quando devono difendere persone disagiate che hanno pochi soldi, che quindi possono pagare poco, non solo non li difendono bene, ma a volte li danno in pasto all'accusa per salvare casomai altri loro persone difese che possono pagare di più. Questa cosa è molto diffusa nelle carceri, chi gira le carceri sa che questa, e quindi questo provvedimento è molto pericoloso, la condanna concordata, perché voi dice vabbè, ma l'avvocato, il difensore sente l'imputato, quindi anche l'imputato dovrebbe concordare, però il rapporto, prendete per esempio tutto il problema dell'immigrazione, gli immigrati quando vengono messi sul banco degli imputati poco capiscono il processo, perché non sanno la lingua, non conoscono le regole, ma perché, ma anche un italiano non conosce, è talmente complicato il sistema, il diritto italiano eccetera, come quello di tutti gli altri paesi, quindi non capisce. Quello gli dice vabbè, ti vanno bene 3 anni, e quello capace gli dice sì, però invece non vanno bene. Ora il problema quindi è molto problematico, non sono molto d'accordo a questa cosa. Vabbè, insomma, comunque certo, è molto meglio della proposta di Gratteri di abolire tout court l'appello e la Cassazione, quindi primo grado e va in galera. Quella è un po' da inquisizione, come giustamente hanno detto gli avvocati. E vabbè, questa è un po' l'intervista, dice tante altre cose, poi passa la critica all'ANM, che sarebbe Associazione Nazionale Magistrati, ma questa è tutta una diatriba tra ministeri, tra il governo e i magistrati, che lasciamo ad altro periodo, ce ne occuperemo in altro periodo. Of an insane rage of the minimum wage, I'm not afraid to lie. Allora, siamo quasi in chiusura, 15:57, pochi minuti per la chiusura, e affrontiamo l'ultimo punto di questa diatriba infinita, che sarà lunghissima. Ora, una piccola precisazione: voi direte, ma queste cose complicate, sì, è complicato, è difficile conoscere tutto l'intrigo dei meccanismi giuridici del diritto penale, dei meccanismi che mandano in galera la gente, noi stessi, insomma, che ci mandano in galera. Certo che sono difficili, complicati, complessi, eccetera. Però dobbiamo conoscerli. Questo vale per tutto, così come dobbiamo conoscere per chi lavora i contratti collettivi nazionali di lavoro, saper leggere la busta paga, così come conoscere le leggi sul lavoro, le leggi sulla sanità, cioè tutto quanto bisogna conoscere. Finché i detenuti e le detenute e coloro che sono solidali con loro, quindi quelle persone che li appoggiano fuori, non diventino dei conoscitori fini e sottili di tutti i meccanismi diabolici, veramente diabolici, del sistema penale italiano, altrimenti sarà difficile che si trovi con la lotta, col conflitto, un'alternativa per spazzare via le galere. Quindi è roba complessa, difficile, ma bisogna mettercisi lì un po' e cercare di capire. Noi facciamo un po' di sforzo per cercare di renderle comprensibili. Insomma, l'ultimo punto, diciamo, è l'ultimo punto di questa intricata vicenda, ci torneremo sopra, spiegheremo ancora ogni punto, è quella del colloquio tra avvocato e imputato. Chiaramente è la base del problema, il fatto che una persona, un imputato, si segna un avvocato, con questo avvocato c'è il colloquio e comincia a definire una linea di difesa che poi passa, va prima nella fase iniziale e poi va nella fase processuale. Questi stanno inventando sempre il signor Gratteri e anche compagnia bella, ma è abbastanza d'accordo il governo Renzi, cioè lui Renzi è abbastanza d'accordo su questa cosa, oltre tutte le proposte fatte da Gratteri che abbiamo analizzato, anche su questa l'intercettazione, cioè questo colloquio va intercettato. Ed è allucinante, qui torniamo veramente all'inquisizione spagnola, quella del rogo, cioè la chiacchierata, la discussione tra avvocato difensore e imputato o anche imputata, non deve essere ascoltata dalle guardie, cioè lì c'è il divieto assoluto, ma dal pubblico ministero sì, e questa è drammatica. Allora, e qui è venuto